penso spesso, non posso stare senza, è una catena che mi lancerà. Una pelle, non cerco ancora, e mi guida ora, come un istinto riesco a fermare, la mia mano ribelle. Parte di me.